Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'è sempre una prima volta e ci sono prime volte che non si scordano più, anche se non le abbiamo vissute da protagonisti, ma da spettatori. Spettatori molto interessati e coinvolti, ma sempre spettatori. Hai portato bene a tagliarsi i capelli? Sì. Oh, era la prima volta che si tagliava i capelli. Il suo primo taglio. Mi sto perdendo tutto. Vabbè, il bello di essere mamma, il momento in cui tua figlia o tuo figlio ti dirà per la prima volta mamma, no? Che bello, che emozione. Soltanto che l'indomani, ti rendi conto, lo dice anche guardando la ruota della bici. Quante prime volte abbiamo vissuto con i nostri bambini: la prima volta che ci hanno sorriso, la prima volta che ci hanno chiamato mamma o papà, la prima volta che hanno dormito una notte tutta intera nel loro lettino o che hanno passato una notte fuori dai nonni, dagli zii, da un amichetto. La prima volta che ci hanno regalato un disegno, scritto una letterina. Qual è la prima volta che portate nel cuore e qual è la prima volta state aspettando? Chiamateci, parlo al plurale perché in studio qua con me c'è Tata Lucia. Wow! Buongiorno, buongiorno. E non è la prima volta. E non è la prima volta. E ti accompagna anche la dottoressa Luisa Notari, pediatra, neonatologa all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, grazie. A voi, grazie a voi. Tata, tu sei mamma e nonna. Certo. E quindi di prime parole, primi passi, prime dentine hai una certa esperienza. Certo. Tra l'altro, di tante prime volte parli nel tuo libro Fate Famiglia, sì. Edito dalla Rizzoli. Sì. E quale prime volte ricordi tu? A me piaceva molto quando cominciavano a gattonare, anche se dovevo chiudere tante porte, perché mi sembrava proprio di vederli indipendenti, ecco. Perché il parlare, eccetera, avendo tre figli, ti abitui un po' a queste prime volte, diciamo. E quindi il movimento per me era molto importante, forse perché sono un'iperattiva anch'io. La dottoressa Notari, come pediatra, può darci il suo punto di vista, perché lei vive l'attesa insieme alle mamme e ai papà della prima volta. Anch'io, certo. Mi rivedo, mi risento, tante domande, qualche timore, un po' di ansia. Quali sono gli appuntamenti più attesi? Ma direi, come neonatologa, la cosa che mi ha sempre colpito molto è la prima volta che i papà e le mamme ovviamente vedono il bambino appena nato, perché questo forse è il momento più emozionante di tutta la vita, almeno di chi chi ha avuto questa esperienza. E in qualche modo la mamma ha avuto la gravidanza, quindi una serie di emozioni che ha già vissuto, introiettato. I papà per la prima volta vedono il primo figlio, e veramente vedere lo sguardo di questi papà è una cosa che rimane molto impressa, è molto bella e molto emozionante, il primo sguardo sul proprio bambino e poi anche il primo sguardo del loro bambino, perché il neonato, una delle domande proprio che vengono fatte appena nati è se il neonato ci vede. Il neonato ci vede, certamente non ci vede come un bambino grande o come un adulto, perché la visione si stimola nel corso degli anni e matura. Però vede le luci, vede le ombre, è in grado, sembra proprio questa cosa accertata, di riconoscere la fisionomia della sua mamma già dopo una settimana di vita. Quindi sicuramente la prima volta che il bambino ci guarda, il nostro neonato ci guarda, è forse la prima volta più emozionante. Poi Il primo sguardo e poi il primo sorriso. Quando iniziano a sorridere? Ma il sorriso, diciamo, intenzionale, nel senso non un sorriso così riflesso, possono farlo già dopo un mese di vita, però è molto variabile. Diciamo che a 2-3 mesi loro sorridono, cominciano a fare i primi sorrisetti, soprattutto quando la mamma gli parla, quando la mamma gli canta qualcosa. Anche il papà, sicuramente la mamma a questa età qua, diciamo, ha un ruolo, non vorrei dire più importante, però diciamolo, è sicuramente un legame più importante. Tata, come sono cambiate le mamme negli ultimi tempi? Le mamme e i papà? Rispetto alle attese nei confronti dei bambini. È questo che secondo me purtroppo le mamme adesso delegano molto la cura e nello stesso tempo hanno delle aspettative molto alte che sono un po' egocentriche, cioè vogliono che il bambino faccia subito questo, faccia subito quello, e se questo povero bambino, che giustamente ha i suoi tempi e cose, quasi si risentono, e questo secondo me toglie veramente anche a volte la voglia stessa al bambino di fare delle cose, perché se tu vieni criticato, se tu metti in bocca il cucchiaino e lo rovesci e la mamma dice no, te lo do io perché tu rovesci, povera gioia, quello poi non ci tenta più. Assolutamente, quindi bisogna saperli accompagnare. Bisogna essere entusiasti delle loro attività, secondo me. Si fa differenza tra il primo e il secondo figlio o no, per chi ne ha tre o quattro, certo. Insomma, secondo si vivono me con per altre fortuna intensità. Poi il secondo e il terzo vanno da soli e crescono da soli e quindi ricevono forse meno critiche, ricevono anche meno congratulazioni, meno rinforzi positivi, però quindi sono lasciati un po' a se stessi. Giampaolo, buongiorno, ci chiama da Milano, benvenuto. Buongiorno a voi. Ci siamo qua pronti ad aspettare la sua prima volta. Ma la mia prima volta è una volta un po' particolare, nel senso che mia moglie e io abbiamo adottato un bambino, è la prima volta che ci siamo recati in Bulgaria all'orfanotrofio per vedere questo bambino. Sì. E l'ho preso in braccio e lui si è addormentato in braccio a me. È la prima volta che io prendevo in braccio un bambino, probabilmente la prima volta che questo bambino mi ha preso in braccio per addormentarsi, sì. Perché direttamente in mano degli operatori, e quindi vederlo addormentarsi serenamente è stata una prima volta per me estremamente importante. Molto emozionante, perché i bambini, la dottoressa ce lo può confermare, lo fanno anche numerose ricerche, se c'è bisogno, no, della ricerca per capirlo, raccontano che sono proprio le carezze e il contatto che aiuta a crescere i bambini. Beh, certamente gli stimoli e diciamo il nostro, oltre agli stimoli, l'imitazione e l'affetto, insomma l'amore che noi gli diamo, gli permettono di crescere, di svilupparsi. Infatti, come diceva lei, proprio questi studi, ma anche diciamo osservazione molto banale di bambini cresciuti in istituti, lasciati in istituto e quindi senza con proprio una deprivazione dell'affetto e delle cure, hanno non solo un ritardo della crescita, nel senso anche se mangiano, ma hanno anche un ritardo neuropsicomotorio, a volte anche molto grave. Quindi sicuramente partecipare della vita di nostro figlio, dargli affetto e fargli da guida, diciamo, nell'esperienza della loro crescita, della sua crescita, è un nutrimento fondamentale. Allora, di che cosa? È una domanda che voglio rivolgere anche agli ascoltatori, alle mamme, ai papà, li ascolto, ma anche ai nonni. Che cosa ha bisogno il nostro bambino per crescere bene? Abbiamo detto l'affetto, l'accudimento. Sì. A questa domanda hanno cercato di rispondere anche psicologi, pediatri, neurologi, sociologi. Esiste una formula, una ricetta? Volete suggerirmi la vostra? Mettiamo gli ingredienti principali. Ciascuno poi li dosa, certo, in modo differente. Cambia un po' la lista delle priorità a seconda anche del bambino. Tata, inizia tu. La tua ricetta. Non esiste, credo, una ricetta se non quella della voglia di volergli bene, ecco, di accettarlo e di volergli molto bene. E quindi voler bene vuol dire stare accanto a questo bambino e supportarlo positivamente in quello che è. Certo. Senza paragonarlo, fare critiche, eccetera. Questo, secondo me, è la base di tutto. Poi dopo, adesso ne sappiamo tantissimo, ecco. Abbiamo parlato delle carezze, del contatto, possiamo parlare, certo, poi delle parole, degli stimoli verbali. Certo, sì, sì. Ci vuole anche tanto gioco, soprattutto il gioco, sì. Dottoressa. Certo, il gioco è fondamentale, per loro è proprio un terreno di crescita, un terreno di è il loro modo di approcciare la realtà e quindi attraverso il gioco loro imparano a vivere, ecco. E cresciamo anche noi attraverso il gioco dei nostri non bambini. Non è facile giocare. Cristina da Siena, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti, a Tata Lucia, di cui ho letto i libri. Bene. Io sono, oramai sono nonna di 6 nipoti, ma ho avuto 4 figli e me li sono goduti perché ho rinunciato al lavoro, ho avuto questa opportunità, rinunciando a qualcosa, però me li sono goduti. E l'ultimo figlio, che ora ha 27 anni, quando facevo le faccende in casa, facevo i lettini degli altri fratelli, che ormai erano all'asilo, a scuola, eccetera, me lo portavo dietro e ci chiacchieravo, gli dicevo le cose, poi lo guardavo e a 20 giorni mi ha gratificato con un sorriso da un orecchio all'altro, meraviglioso, e ho detto: mamma mia, se fossi andata a lavorare questo me lo sarei perso, questo vale, mi gratifica e mi riempie di gioia, una gioia così grande, perché non era un sorriso involontario, era proprio un sorriso alla sua mamma, un contatto mamma figlio. E quindi non rimpiango di non aver lavorato assolutamente. Le mie figlie chissà perché hanno scelto di fare le mamme, hanno 3 bambini ciascuno, io non le ho trasmesso il valore assoluto del restare a casa, forse l'hanno imparato stando a casa. Grazie Cristina, sì. Buoni nipoti. E abbiamo Roberto che ci chiama da Biella, buongiorno. Buongiorno dottoressa, io chiamo per raccontare un'esperienza, non credo unica, ma comunque abbastanza rara. Io sono un mammo, nel senso che ho lasciato il lavoro, ho lasciato la mia città che è Roma per trasferirmi dove vive appunto mia moglie, è nata una bambina e la mia prima volta è stata quando dopo pochissimi giorni dalla nascita mia moglie ha dovuto riprendere il lavoro purtroppo, e quindi io a proposito di lavoro la scelta è stata questa, lei ha un incarico molto importante in una società e non poteva assolutamente rinunciare, perché in Italia se la donna deve faticare il triplo per conquistarsi tutto, e quindi E lei si gode la sua bambina, Roberto? Io mi godo la mia bambina, ma ricordo, e non lo scorderò mai, il primo giorno mia moglie ha ripreso a lavorare, erano passati pochissimi giorni, alle 7:30 è uscita da casa e io mi sono trovato con questa bimba Sofia di 15 giorni, è stato il mio primo giorno di lavoro, vero? Roberto, adesso cosa faccio? Mi sono detto, da solo, perché i miei genitori non sono neanche come i suoceri. Com'è andata? Adesso a 2 anni e mezzo io sopravvissuta. Sono il punto di riferimento ormai. Guarda che fierezza, tata, Roberto, alle prese con una pupetta di 15 giorni. Perché anche i papà hanno, sembra una bestia dire, l'istinto materno dei padri, no, ma... L'istinto paterno. Che serve anche quello. Si occupano in modo diverso papà e le mamme dei bambini piccoli? Beh, sicuramente l'uomo è sempre più pragmatico, per cui dal punto di vista pratico può fare benissimo, proprio perché è pragmatico. Forse ha un po' meno intuizioni da altri punti di vista, però insomma ce la sono può uomini, fare tranquillo. Sono pur sempre uomini e allora gli uomini all'ascolto, consigli della tata Lucia. Il 15 del mese corrente il signor Leopold Mozart arriverà in città con i suoi 2 bambini prodigio prima di proseguire per la Francia e l'Inghilterra. Il pubblico di Francoforte avrà il piacere di apprezzare il talento portentoso di sua figlia di 12 anni e quello di un bimbo di 8 anni, suo figlio, che è il più grande musicista di tutti i tempi nel violino e nel clavicembalo. Che cosa ne pensi? Che hai esagerato un po', non ti pare? Ah, no, non è mai abbastanza. Si dice non è mai abbastanza, tata, e ciascuna mamma e ciascun papà, insomma, cerca di intravedere nel proprio bambino quel quid in più, no? Sì. Un piccolo genio. E io direi, è una cosa bella avere dei bambini che fanno le cose nei tempi giusti, si appassionano della vita, crescono. Ma in linea con noi abbiamo la dottoressa Veronica Saletti, neuropsichiatra infantile all'Istituto Besta di Milano. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a tutti. I bambini hanno bisogno di stimoli che, come proprio una sorta di nutrimento, aiutano lo sviluppo delle aree del cervello, delle funzioni visive, motorie, del linguaggio e delle abilità intellettive. Senz'altro, sì, quando un bambino nasce ha un cervello che è già strutturalmente, geneticamente predisposto a processare, ossia a elaborare le diverse funzioni come la vista e il linguaggio in determinate aree ben precise della corteccia cerebrale, e tutte le stimolazioni ambientali che agiscono le stimolazioni ambientali dei primi anni agiscono sicuramente attivando queste aree geneticamente predisposte, inducendone delle modificazioni proprio strutturali con la creazione di nuovi circuiti cerebrali più efficienti a spese di circuiti meno efficienti. Quindi proprio quando si dice gli stimoli fanno crescere, è proprio così? Sì, è proprio così, ma proprio perché inducono delle modificazioni strutturali cerebrali. Stimoli buoni e credo al momento giusto. Ci può fare qualche esempio, dottoressa Saletti? Senz'altro, farei l'esempio del linguaggio, che diventa più facilmente comprensibile per tutti. Il linguaggio è una funzione innata, ogni bambino nasce con già la predisposizione a imparare qualsiasi lingua, qualsiasi suono di qualsiasi lingua del mondo, e impara poi a discriminare e a riprodurre i suoni della lingua ovviamente a cui è esposto soprattutto nel corso del primo anno di vita. Quindi è importante che la stimolazione verbale avvenga molto precocemente. È anche vero che è importante anche come avviene la stimolazione verbale. Ad esempio, i genitori inconsapevolmente adottano uno stile verbale nei confronti del loro bambino che è quello giusto perché il bambino impari a parlare correttamente. Si pongono ad una distanza molto ravvicinata per catturare l'attenzione visiva, parlano con un tono di voce piuttosto acuto, con parole singole molto ben scandite, enfatizzate, e questo facilita l'attenzione visiva del bambino nei confronti del volto del genitore, facilita l'imitazione perché il bambino guarda proprio come vengono prodotti i suoni, l'articolazione dei suoni, cerca poi di riprodurli. E questo è una modalità che i genitori mettono in atto assolutamente inconsapevolmente, e ovviamente vale per tutti gli stimoli e per tutte le funzioni. La cosa importante è che gli stimoli vengano forniti sempre in maniera tale che il bambino li possa recepire a seconda della sua età, della sua fase di sviluppo, altrimenti non attecchiscono. Dottoressa, abbiamo detto stimoli buoni al momento giusto, ma nella giusta anche quantità, perché non c'è il rischio di esagerare di iperstimolarli? Sicuramente oggi sì, oggi questo problema c'è perché molti genitori sono presi un po' dall'ansia di dover stimolare molto i loro bambini per avere dei bambini molto intelligenti, molto dotati, molto capaci. In realtà l'eccesso di stimoli può avere degli effetti nocivi esattamente come l'ipostimolazione, quindi la cosa importante è sempre che il genitore si moduli, parlo del genitore come figura ovviamente di accudimento, che si moduli nei confronti del bambino, non solo che tenga conto delle curiosità del bambino, che lo ascolti e quindi che noti quali sono i suoi interessi, e che offra degli stimoli sempre nell'ambito di una relazione che sia effettivamente valida ed empatica. Vuol dire, nessun bambino può imparare l'inglese perché ascolta un DVD di inglese al giorno, certo. Impara l'inglese nell'ambito di una relazione affettiva con un'altra persona, una relazione che abbia un significato, certo. Quindi è fondamentale, e la Tata lo conferma, anche la risposta del bambino. Il bambino deve dimostrarci di avere di piacere, curioso, di fare le cose, di aver piacere, di condividere proprio quello che si sta facendo. È proprio come una partita due, no? Esatto, una partita tennis. Noi, certo, dobbiamo aspettare anche, a proposito la di risposta, attesa, la risposta. Dottoressa Saletti, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, è stato un piacere. La bambina puzza. Già, d'accordo, la cambio. Sapevo che prima o poi avrei dovuto farlo. Nessun problema. Ok, sembra che basti usare il nostro adesivo sui lati, no? È facile. Mi servono dei tovaglioli, mi servono dei tovaglioli! Cos'è successo? Ci sono le prime volte dei nostri bambini, ma anche ci sono le prime volte per noi alle prese, certo, no? Da genitori, il cambio del pannolino, mm-hmm, per adesso lo cambiano anche i papà. Sì, certo. E sono grazie a Dio. Grazie a Dio, dice la dottoressa Notari. Ma in queste... Sono anche bravi. Sono più bravi, secondo lei? No, sono anche bravi, nel senso che una volta... A volte li sottovalutiamo. Che ce la fanno senza sentirsi degli eroi. Sì, sono bravi. Abbiamo forse un papà che ci aspetta, Massimo da Pistoia. Lei cambia pannolini? Massimo? Buongiorno. Ne ho cambiati migliaia, penso. Bravo, Massimo. Buon lavoro. Visto che no, addirittura io lavo, stiro, panni, cucino. Io non lo so, perché lui lava, stira, cucina, sa fare tutto. Che e bravo. Sono sempre i mariti degli altri, però. Massimo! Ma ci sei rovescio della medaglia. Ah, ecco, ce lo racconti. No, non lo so, di sicuro mia moglie me lo potrebbe dire, ma ora lei sta lavorando. Ecco, non può chiamarci. Senta Massimo, noi la sentiamo un po' malino e magari la richiamiamo, così lei ci racconta la prima volta che le ha toccato il cuore. Massimo, la richiamano subito dalla regia, vado da Bruna, da Milano. Bruna, buongiorno. Salve, buongiorno, complimenti a tutti. Senta, no, io volevo raccontare la prima volta che mio bambino ha detto come si chiamava. E eravamo in coda per scendere da un traghetto e nessuno si sarebbe mai immaginato che lui, che faceva già qualche parolina, capisse le domande degli altri. Cioè, la cosa che mi ha proprio emozionato tantissimo e sconvolto è stato che una signora davanti chiedeva un altro bambino più grande come ti chiami, e lui tutto di punto ha risposto il suo nome. È stata proprio una cosa. E si chiama il suo bambino Bruna? Come si chiama Galileo. Lui ovviamente ha detto Galileo, ma era proprio il suo nome. Che è anche un nome importante. Ecco, ma Bruna, mi dà lo spunto, dottoressa Notari, per chiederle questo. Molte mamme, molti genitori, gli adulti dicono: faccio le domande, ma poi lui non capisce tanto le domande. In realtà le domande loro, se ben formulate, le capiscono. Ma in realtà c'è tutto un periodo. Galileo con questo nome le capisce sicuro. Beh, Galileo per forza, cioè, è un nome, una garanzia. Ma li sottovalutiamo molto i bambini, nel senso che spesso loro hanno delle capacità che noi, non osservandoli, non ascoltandoli, non capiamo, oppure non immaginiamo, perché siamo alla nostra prima esperienza come genitori. Però spesso i bambini, prima di iniziare a parlare, hanno un grosso lavoro che a volte dura parecchi mesi, a volte anche anni forse no, però insomma molti mesi, in cui ascoltano e capiscono. Dopodiché alcuni bambini piace parlare in quel modo molto così da bambino piccolo, altri invece vogliono iniziare a parlare quando sono un po' più sicuri. Quindi se noi facciamo delle domande prova, tipo prendimi quel calzino giallo nel terzo cassetto, spesso bambini anche di 2 anni vanno e ti arrivano col calzino giallo. Quindi spesso è proprio la nostra... E sono attività che tu consigli, vero? Sicuramente, sono tutti giochi, fra l'altro, perché loro lo vivono come gioco. E adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo subito dopo insieme. Essere e benessere. E siamo tornati qui, Elisa, buongiorno, dalla provincia di Treviso. Buongiorno, salve. Buongiorno. Volevo raccontare della prima volta che il mio figlio più grande ha camminato. E io non c'ero. Se l'è perso, Elisa. Ma no, sono stata contenta perché era a casa con mia nonna, perciò la sua bisnonna. Sì? E lui era il primo nipote, perciò l'ho fatto con lei. E dopo, quando sono tornata e me l'hanno raccontato, mia nonna era emozionatissima, contentissima. E io sono stata contenta. Sì. Che se l'hai goduto lei. Eh sì, perché lui è andato incontro alla bisnonna. È veramente lì, è la vita, è la vita, sì, che esatto, avanza. Sì. Ci sono dei giochi, i miei ascoltatori me lo stanno chiedendo, da suggerire ai nostri ascoltatori per aiutare il bambino a muovere i primi passi, aiutare il bambino a rendersi più autonomo. Nel mio libro Spegnete la TV ci sono più di 200 giochi, tra cui addirittura, per esempio, il dividere mio, tuo, nostro, dividere la biancheria, questo è mio, questo è tuo, questo è nostro, l'asciugamano è nostro, che dà la sensazione al bambino che la famiglia è composta da singoli e da una comunità. Nostro. Massimo, buongiorno, ribuongiorno. Sì, buongiorno, mi sente ora? Sì, allora, la sua prima volta con il suo bambino? Ma senta, il giorno che è nato è stata sicuramente la prima volta e anche la più emozionante, nel senso che io, come penso molti uomini, fino a quel giorno non è che pensassi molto a questo bambino, cioè non mi facevo dei pensieri. Nella mia vita non è che ne avessi neanche mai desiderati, quindi però quel giorno successero parecchi imprevisti e praticamente mia moglie aveva avuto un parto molto travagliato, concluso con un cesareo d'urgenza, dove io feci anche il barelliere perché era domenica e non c'erano infermieri. E praticamente questo bambino ebbe una sofferenza abbastanza importante. E quando uscì dalla sala operatoria, io ero fuori, praticamente dopo 12 ore esausto, perché per tutta una serie di cose che ora sono lunghe da raccontare, comunque ero proprio stremato, però, certo. Ero stravaccato su un gradino e vidi questa incubatrice uscire con questo bambino. Praticamente mi ricordo che mi alzai appena appena, guardai questo bambino e questo bambino... E anche se io ero consapevolissimo che lui non potesse vedermi, perché tra l'altro io lavoro con le persone minorate della vista, quindi so queste cose, e aveva gli occhi spalancati ed era girato verso di me e sembrava mi puntasse gli occhi dritti nei miei occhi. Cercava il suo papà. E quindi ho quel ricordo, ho il ricordo di questa testa tutta sconnessa, con tutte le ossa craniche come fossero delle tegole sbattute dal vento. E poi è iniziato tutto, insomma. Poi lui ora in realtà sta benissimo, insomma, non ha avuto conseguenze, ora va in prima elementare. Dare. Quello che poi io volevo aggiungere, sì, anche avendo sentito la vostra trasmissione, è che è vero, molte volte noi genitori, i genitori di oggi tendono a mettere magari al mondo i figli e pensare di delegare ad altri delle responsabilità che sono loro. Sì. Io ho fatto una scelta di vita, avevo uno stipendio inferiore a quello di mia moglie e quindi abbiamo deciso che il pane a casa lo porta quasi esclusivamente lei, nel senso che io lavoro comunque delle ore ogni mattina perché sì, lavoro nella scuola. E, però ecco, mi sono centrato io l'orario e praticamente i figli ci passo io molto del tempo, e provvedo in tutto e per tutto. E sono Massimo, abbastanza soddisfatto, naturalmente. Questa sua descrizione, vedo che anche la dottoressa Notari la seguiva ed è stata quasi toccata, che sembra una cosa un po' strana, perché lei è neonatologa e quindi oltre a essere pediatra di bambini ne vede tanti. Certo, e quindi lo sguardo del papà sul neonato è una cosa molto, molto toccante, perché la mamma in qualche modo se lo aspetta questo neonato, no? L'ha cresciuto dentro il papà, e spesso questo quello che mi ha colpito di quello che diceva questo papà, che io non ci avevo neanche tanto pensato, cioè questa cosa per loro, il viaggio della conoscenza verso lo bambino spesso inizia proprio quando lo vedono la prima volta rispetto alla mamma, e questa è veramente una cosa molto emozionante. E anche questa cosa che diceva il papà, che sta a casa e accudisce il bambino, effettivamente non è solo la responsabilità. La responsabilità è una faccia della medaglia, l'altra faccia della medaglia è la grande soddisfazione, la grande gioia che ti dà lo stare col tuo bambino, godertelo proprio. E poi ci sono i consigli di Tata Lucia, che servono alle mamme, servono ai papà. Perché tu pensi anche molto ai papà e dedichi proprio particolari attenzioni a questo. Soprattutto adesso, vedi, a me piace questo papà, perché questi papà che si dedicano proprio ai figli in un certo senso, o che comunque sono presenti coi figli, perché io sono molto irritata da tutte queste rivendicazioni dei padri single, che pure il figlio l'hanno fatto tal quale la madre, diciamo, e che adesso piangono miseria, piangono qui, piangono lì. È una responsabilità, capito, questo figlio, quando decidi di fare un figlio deve essere una responsabilità, che poi non puoi dire io adesso non posso. Ci sono storie quando le famiglie si separano, poi magari potrebbe essere l'occasione di una puntata, che sono dolorose. Sono storie solo economiche. Adesso diciamocelo francamente. Sicuramente la crisi, perché dal punto di vista, diciamo, emotivo, se tu vuoi avere un contatto con un figlio, in qualche modo ce l'hai. Hai capito? Poi ci sono i casi. Io non mi sento, anche perché non è il tema della trasmissione, di addentrarmi questi padri che hanno telefonato ci insegnano che effettivamente se tu riesci a questo figlio a considerarlo veramente figlio, è una cosa meravigliosa, così come la madre col figlio. Certo, insomma, ci sono nelle relazioni, ci vuole impegno, responsabilità, anche un po' di fortuna. È un mix, è una ricetta, certo. A proposito di ricette, cioè, così. Il sangue non è acqua. Gianna da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo un consiglio. Sì. Sono una mamma un po' attempata, visto ho 43 anni e ho una figlia di 10 mesi. Sì. A proposito di giochi, quali sono i più adatti, più idonei per l'accrescimento, per lo sviluppo psicomotorio? Tenendo conto che la mia bimba ancora non cammina, ma gattona da quando ha 6 mesi. Da quanto ha? 10 mesi. Allora, Tata, dottoressa Notari, che cosa possiamo consigliare alle mamme in ascolto, certo, che si ritrovano un po' nella stessa situazione? I giochi di sono Gianna. Molto diversi a seconda dell'età del bambino, chiaramente. Il neonato nel primo mese ha delle scarse capacità di gioco, mentre ha già grosse capacità relazionali. I primi giochini sono proprio quelli semplici, che si appendono, sono degli oggetti che possono fare delle apine, rumore, sì, che appendi alla sdraietta, alla carrozzina, alla culla. Questa cosa cattura l'attenzione del bambino ed è uno forse dei primissimi giochi che, sì, fa. Dopo, crescendo, si passa a diversi giochi. La cosa che sicuramente consiglio è quello di non spendere dei capitali in giochi elettronici con pile che fanno rumori. Anzi, spesso il gioco con le pile ha la tristezza che quando si scarica la pila sembra che sia morto il gioco. Quindi giochi molto semplici. Molto semplici, ben controllati. Colori vivaci, sì, perché contrastati. Magari anche delle, proprio la consistenza del gioco può essere di velluto, può essere ruvido, può essere morbido, può fare un pochino di rumore, può fare illuminarsi. Molti di voi ci hanno scritto che il primo sorriso è sicuramente un'emozione, perché soprattutto quando il bambino inizia a non avere il sorriso, sì, il riflesso, ma te lo fa proprio perché tu sei lì intenzionalmente, certo. Ma il primo sorriso ci fa venire in mente anche poi quando da sorriso sdentato arriva ad essere il sorriso con una piccola perlina che spunta, un dentino. Di solito si scopre dando la pappa, perché il cucchiaio fa tic. Allora è lì che è nato il primo dentino. Dentino che va assolutamente festeggiato, certo, protetto, certo, perché sono dentini che hanno una durata, sono dentini da latte, ma sono assolutamente importanti anche per i denti che sfoggeranno, certo, per sorrisi con, certo, i loro fidanzati. Quindi teniamoli da conto. E in linea con noi abbiamo il dottor Guido Benedetti. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno a voi. Odontoiatra e autore del libro Mamma che denti. Dottore, sa che si dice no al ciuccio, no allo zucchero, no alle caramelle, no al dito in bocca. Insomma, sì, questi bambini, per quanto riguarda la salute dei denti, dovremmo tenerli sempre, dovremmo sempre dire di no. Invece ci sono dei ni o dei no che vanno detti in un certo modo. Assolutamente, assolutamente. Più che sì o no, io direi che è tutta questione di come. Effettivamente lei ha detto no al ciuccio, no al dito, no alle caramelle, allo zucchero. Sono tutte cose, parliamo anche semplicemente dell'alimentazione, cioè, sì, le caramelle, che in cui ce la prendiamo sempre. Come facciamo a dire di no in maniera assoluta? Ora, quando parliamo di alimentazione viene subito in mente l'argomento carie, ad esempio, sì, che è una cosa che può riguardare assolutamente anche i denti da latte e con conseguenze spesso anche molto più complicate, anche gravi, dei denti degli adulti, dei denti, sì, permanenti, anche perché spesso il bambino, poi essendo così piccolo, difficilmente poi si può diciamo fare qualcosa a posteriori, quindi è sempre meglio prevenire. Quando però si parla di mangiare, praticamente tutto quello che mangiamo contiene gli zuccheri che ci possono far venire la carie, sì, proprio per questo non possiamo evitare praticamente tutto. Gli unici alimenti a non avere gli zuccheri e la carie sono le, certo, uova, il pesce, la carne. Quindi tre consigli per le mamme e i papà all'ascolto per mantenere sani i denti da latte dei loro bambini, che è condizione per poi avere una bocca sana anche da adulti. Assolutamente. Numero, allora, uno. Numero uno, la frequenza degli spuntini, cioè dopo lo svezzamento, il numero delle volte che la persona mangia nell'arco della giornata. Se io mangio colazione, pranzo, cena, merenda al mattino, merenda al pomeriggio, io do abbastanza tempo alla bocca per ripulirsi grazie alla saliva, poi naturalmente la devo pulire anch'io, certo, si deve pulire anche quella dei bambini, però è la frequenza delle la volte frequenza. Quindi non continuate a dare spuntini ai vostri bambini, ne guadagna anche il peso, la salute generale. Certo. Numero due. Dottor Benedetti. Mai, questo è veramente imperativo, non, sì, è proprio imperativo, andare a letto con un biberon contenente latte, biscotti, camomilla, sì, miele. La dottoressa Notari aggiunge succhi. Sì, succhi di aggiungiamo frutta, anche no al ciuccio con il miele. Perché questa è un'altra cosa, forse sta. Però sì al ciuccio. Però sì al, certo, ciuccio, dice no, la. No, quello non. E poi anche quello è sull'argomento delle malocclusioni, potremmo parlare a lungo, però il ciuccio è uno strumento che, per carità, anzi serve per la tranquillità del bambino. Quindi abbiamo già dato un secondo consiglio con alcune postille. Arriviamo al terzo. Al terzo, fondamentalmente, dopo, quando il bambino comincia ad avere 2 anni e mezzo, 3, introdurre il prima possibile lo spazzolino con un pochino di dentifricio. Il consiglio mi sento di dare, da 3 anni in poi il dentifricio, ne basta una minima quantità. Se uno vuol fare un paragone, le dimensioni di una lenticchia. Ringrazio i miei ospiti, adesso traffico e poi vi aspetto qui. Tornate! Essere e benessere. Sai, io avverto una fragranza nell'aria.